quando fai certe cose. Mi piace quando fai certe cose. Certe cose quando fai certe cose. Mi piace quando fai. Ero con le bambole, coi bomber. Guardavano le bambole, coi bomber. Qualcuno ha detto andale, andale. Sono accese fiaccole, le trombe. Sempre in giro come Gran Turin. Lenti scuri quando fatturi. Non fai le radura che inventuri. Punta su di me che vado all in. In discoteca, devo fino a diventare analfabeta. Chi vuoi diventare alfa o beta? Giudicare da tua life, zeta, zeta, zeta. Fai bello come un tale tu. Brucio ste Barbie, faccio un barbecue. Mi piace il tuo grande cervello. Sai cos'è meglio, fare scopa col set è bello. Certe cose, certe cose, quando fai certe cose. Mi piace, quando fai certe cose. Shot, ma reggi bene l'alcol e martedì in palestra fai squat con il tacco. Loro slacciano bottoni se fa caldo, quando lo fai tu invece suda qualcun altro. Arrostiscono se al cinema c'è una scena di sesso, tu invece dici che puoi fare meglio. Loro a casa con il tipo con la tuta, con le felpe, fanno foto con roba aderente per i like. Loro hanno una visa che usano raramente, tu hai reggiseno solo che non usi mai. Loro seguono la moda, tu la fai. Loro Miu Miu, Jimmy Choo, tu minigon e Nike. E se rimango in boxer, te ne foti se non sono Calvin Klein. Mi piace quando fai certe cose, certe cose, quando fai certe cose. Mi piace quando fai certe cose.